I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Ci occupiamo ancora di Europa, ma questa volta non di Grecia. Un'altra Europa con l'attenzione rivolta alle iniziative di Bruxelles per eliminare ogni forma di penalizzazione a danno dei consumatori. Un esempio arriva dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, che dopo lunghe trattative ieri hanno trovato un accordo per l'abolizione delle tariffe di roaming, vale a dire il sovrapprezzo che ogni consumatore paga quando utilizza in un altro paese europeo il proprio cellulare, lo smartphone oppure il tablet. Come sappiamo, il roaming, questo sovrapprezzo, pesa in modo significativo sui costi tariffari a carico dei consumatori e l'obiettivo dell'Unione Europea è appunto la sua abolizione. Peraltro non è la prima volta che l'Europa se ne occupa, tanto che secondo la Commissione dal 2007 a oggi il sovrapprezzo si è già ridotto del 70-80%. Ora l'intesa raggiunta a Bruxelles prevede che a partire dal giugno del 2017 ogni maggiorazione dovrà essere azzerata, quindi l'utente italiano che utilizzerà il suo telefonino in Francia o in Germania pagherà le stesse tariffe che paga in Italia. Prima di arrivare alla completa abolizione dei costi di roaming ci sarà una fase intermedia. Dall'aprile 2016 gli operatori telefonici potranno applicare solo mini maggiorazioni, un piccolo passo verso un'Europa più attenta ai diritti dei consumatori. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Se non altro, la crisi greca a qualcosa è servita, a far capire a tutti che l'euro non è una porta girevole e uscire presenta delle incognite e soprattutto dei costi a carico delle famiglie, delle imprese, di tutti i cittadini, che sono ben superiori al punto interrogativo che ci aspetterebbe tornando alle vecchie valute. Questa è un po' la morale della crisi greca, scontri contro scontri, polemiche, accuse reciproche e soprattutto toni che non fanno nulla a che vedere con quello che dovrebbe essere un po' lo spirito dell'Europa, solidarietà e crescere insieme. Certo ce lo siamo dimenticati da parecchio che cosa significa crescere insieme, ma ripeto, la morale della storia greca qual è? Che isolati non si va da nessuna parte. Questo è un momento delicato, è un momento da cui probabilmente si uscirà soltanto prendendo le lezioni di questa crisi greca e facendone tesoro per ricostituire un'Europa più giusta e su basi più solidaristiche, tenendo presente che se nei momenti di bassa marea sono soprattutto le barche più forti che tengono meglio l'urto e nei momenti di alta marea che bisogna crescere insieme. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.